Il cartello nella vetrina del mobiliere offre preventivi di cucine computerizzate. Il passante lo nota da una certa distanza e blandamente se ne stupisce, guarda un po', pensa, adesso ci sono anche le cucine computerizzate. A cosa giovi una cucina essere computerizzata? Veramente non riesce proprio a capirlo, perché anche se oggi l'utente cuciniere, anche a livello domestico, può vantaggiosamente impostare talune funzioni elementari di programmazione e coordinamento, accendi il fuoco da talora, spegnilo da tal'altra, di solito esse provvedono nel migliore dei modi dei normalissimi timer elettronici o anche meccanici, vanno benissimo. Al massimo, proprio a voler eccedere, ce la si cava con un paio di chip, ma senza la necessità di adibire un processore o qualcosa del genere. Ma si sa che quello dei computer oggi è per eccellenza il regno del superfluo, che chi lo regge non si stanca di offrire all'avido pubblico dei servizi di cui l'avido pubblico non ha bisogno, e prodotti in grado di soddisfare necessità puramente immaginarie, per cui se da un giorno all'altro compaiono sul mercato delle cucine computerizzate non c'è da stupirsi. Così va il mondo, anzi così va il mercato. Poi il passante si avvicina e scopre che, ingannato dalla crescente presbiopia, da lontano lui aveva scambiato una I per una E. A essere computerizzati non sono le cucine, ma i preventivi. Preventivi di cucine computerizzati, offre il cartello. E questo aumenta le sue perplessità, perché anche se il computer può essere utilissimo per fare un preventivo, non è strettamente indispensabile, ma altrettanto utile di una buona calcolatrice, insomma. Comunque questa sua utilità riguarda colui che lo stende, il preventivo, non il possibile cliente a cui è destinato. A costui in sostanza interessa che un preventivo sia chiaro, esaustivo e sincero, che poi sia elaborato al computer o al pallottoliere, non sono affari suoi, e non si capisce perché il negoziante pensi di doverlo dichiarare in vetrina. Ma è una domanda naturalmente ingenua. Oggi il computer non è soltanto un utensile prezioso, anche se più delle volte superfluo, e in un modo o l'altro è diventato il portatore di valore per eccellenza. Tutto quanto gli è collegato assurge a una sfera particolare, quella in cui un preventivo computerizzato, appunto, non può essere che migliore di un preventivo che computerizzato non sia. Anzi, è probabile che per qualche tipo di proprietà transitiva non ancora sufficientemente indagato dalla logica, questa eccellenza si trasmetta anche alle cucine, che in sostanza sono l'oggetto di offerta di quel cartello. C'è una sola cosa a cui il commerciante dovrebbe stare piuttosto attento. Questi valori sono strettamente legati all'innovazione tecnologica o di mercato che incarnano. Un cliente un po' sofistico di fronte a quel computerizzati potrebbe porsi dei problemi. Computerizzati sì, ma con quale apparecchio avrà operato l'esercente? E nel mondo dei computer c'è solo una cosa peggiore di non computerizzato, è computerizzato su un sistema fuori mercato. Chiunque viva l'esperienza di possedere o utilizzare uno strumento non di ultimissima generazione sa cos'è l'angoscia, anche se per caso quello strumento va benissimo per le sue esigenze. E quei preventivi non saranno forse stati elaborati su un 386, non so, o peggio su un 286, o su qualche arcaismo di tal fatta? Sono domande pericolose, perché le proprietà transitive agiscono anche sui dubbi, e un preventivo fatto su un computer desueto rischia di sembrare riferibile soltanto a cucine altrettanto arcaiche. Meglio evitare certi rischi e, dopo preventivi di cucine computerizzati, aggiungere tra parentesi, ma in bella vista, qualcosa come Windows 95.